24 mattino. Eccoci alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati con 24 mattino, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666 e parliamo di economia. Se Deborah Rosciani non se ne va, dove vai Deborah? L'economia, un attimo. Soldi e dintorni. Eccoci. Ha preso, stavo visto annunciando tutte le mattine ti arrabbi quando ti chiedo di alzarmi il volume delle cuffie, in piena dipendenza l'ho fatto da sola questo lavoro. Se parliamo in due la gente non capisce nulla. Già quando allora andiamo parliamo con ordine. Buongiorno, dove vai con questa camicia da notaio? Buongiorno oggi? Allora parliamo del tema, che è meglio sempre che tu voglia rimanere nello studio e non ti alzi. Rimango all'improvviso. Qua perché il tema che abbiamo scelto stamattina mi piace molto. Bene. Per cui ne voglio sapere di più. Lo dico? Dicelo. Allora, è un tema molto serio. Noi, come sapete, sdrammatizziamo sempre all'inizio della nostra trasmissione, poi però ovviamente parliamo di temi economici molto seri, molto importanti, e lo è particolarmente quello di questa mattina. Ci sono tantissime famiglie nel nostro paese che si trovano in una condizione di forte disagio economico. Secondo gli ultimi dati Istat, quasi 1 milione di famiglie di queste è in uno stato di povertà assoluta, cioè non sono in grado di procurarsi il paniere di beni e servizi per mantenere uno standard di vita minimamente accettabile. Sono aumentate negli ultimi 2-3 anni dal 2005 ad un ritmo doppio di quello generale delle famiglie. Nel 2007 le famiglie in condizioni di povertà assoluta, e cioè con seri problemi di risparmio e spesa quotidiana, erano quasi 2.653.000, l'11% del totale nazionale, e la crisi economica, lo sapete bene, ha aggravato la situazione. A giugno di quest'anno i lavoratori in cassa integrazione hanno superato il 500.000 di unità, e chiaramente quando si va in cassa integrazione il bilancio familiare cambia radicalmente. Allora, abbiamo parlato molto nei mesi passati di tante iniziative di sostegno per queste famiglie prese su vari fronti, fra cui anche quello che è stato organizzato a livello di diocesi, di Caritas, che molto spesso rappresentano i luoghi di sostegno di ultima istanza per le persone in serie difficoltà finanziarie. Martedì 1 settembre è partita l'iniziativa Il Prestito della Speranza, un aiuto bancario per le famiglie più povere che verrà erogato dalle banche italiane, secondo quanto ha stabilito un accordo firmato nei mesi scorsi fra la Conferenza Episcopale Italiana e l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Come funziona? Che tassi vengono praticati? Quanto è possibile chiedere? Come si fa a chiedere questi prestiti? Stamattina ne parliamo con Marco Morganti, amministratore delegato di Banca Prossima del gruppo Banca Intesa San Paolo. Dottor Morganti, benvenuto a Soldi e Dintorni. Ci sente? Sì, li sento bene. Eccoci qua, buongiorno. Ho fatto un preambolo un po' lungo, però in realtà la situazione è questa. Il sistema bancario ne è pienamente cosciente, però quando noi parliamo di banca, e lei lo sa bene, noi ne parliamo anche in altri contenitori della nostra radio, non abbiamo mai un avvicinamento sereno, e figuriamoci se le famiglie in difficoltà possono pensare che se sono appunto in uno stato di disagio economico molto molto importante, molto forte, se la banca può aiutare in una circostanza di questo tipo. Allora, qual è la novità di questa iniziativa, dottor Morganti? Poi parleremo anche di Banca Prossima. La novità sta nel fatto che la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha scelto di rivolgersi non genericamente alle famiglie in povertà, perché questo avrebbe da un lato allargato molto il target e avrebbe reso difficile fare una politica, diciamo pure, unitaria, ma ha scelto un segmento di queste famiglie. È un segmento comunque numeroso, poi si può calcolare quante saranno quelle che decideranno di rivolgersi alle banche e alle diocesi per avere questo accesso al credito facilitato, però si tratta di comunque un segmento delle famiglie in povertà. Qual è questo segmento? A chi ci si rivolge esattamente? Certo, sì. Si tratta di famiglie con 3 figli, che possono essere minori ma anche maggiorenni, e possono essere iscritti all'università, non soltanto quindi i bambini più piccoli. Sono famiglie che hanno perduto completamente il reddito o che sono rimaste con la sola cassa integrazione. Come ulteriori elementi, diciamo, preferenziali, c'è la presenza in famiglia di persone a carico con handicap, con difficoltà, con non autosufficienza, sia per anzianità sia per handicap di altro genere. Con queste caratteristiche il target di riferimento è comunque molto grande. Calcolando che soltanto alcuni riterranno di rivolgersi a questa opportunità perché avranno altrimenti possibilità di tirare avanti, si può immaginare che circa 30.000 famiglie potrebbero richiedere il prestito. Quindi abbiamo un target di un possibile gruppo di 30.000 famiglie nel nostro paese che potrebbe essere interessata appunto ad erogazione di questi prestiti. Poi cercheremo di capire quanto vale, a quali condizioni. Banca Prossima, che cosa fa, dottor Morganti? Banca Prossima è una banca che ha avuto il compito, che stiamo cominciando a sviluppare, ormai siamo attivi da un anno, il compito di lavorare nel terzo settore verso il segmento non profit, l'economia del bene comune come si chiama oggi, con l'obiettivo di aumentare l'accesso al credito delle organizzazioni non profit che sono generatrici di bene comune, cioè che hanno per obiettivo la realizzazione di servizi per le famiglie, per le persone, per i cittadini. Oggi il mondo non profit vale circa 4 milioni di persone come aderenti e circa 50 milioni di italiani serviti, quindi è un pezzo di paese che per dimensioni e per compito merita un'attenzione particolare, che purtroppo si può dire che sono loro stessi a dirlo. Non riceve dalle banche. Quindi tanto per far capire anche ai nostri ascoltatori, il prestito della speranza di cui parliamo questa mattina, visto che Banca Prossima poi è la banca europea dedicata all'economia del bene comune, ma fa capo a Banca Intesa San Paolo, qualora una persona fosse interessata al prestito della speranza di cui parliamo stamattina, si deve rivolgere ad uno sportello di Banca Intesa o a Banca Prossima? No, tanto per fare un po' di chiarezza. Esatto, si deve rivolgere a uno sportello di Intesa San Paolo, però l'accesso è diverso, cioè avviene per gradi, adesso vorrei, se crede, spiegarlo. Certamente. Allora, le famiglie in difficoltà accedono tramite le Caritas, quindi questo progetto inizia in parrocchia. Inizia all'interno di un circolo di fiducia, se usassimo un termine di quelli diventati famosi con il premio Nobel Yunus. Un circolo di fiducia, cioè persone che si conoscono, c'è una fiducia reciproca, c'è una figura che fa un po' da mentore, che può essere il parroco, che può essere il rappresentante della Caritas in parrocchia. Allora è questo soggetto che si prende carico della famiglia in stato di bisogno. E immediatamente dopo comincia invece un percorso tecnico. La valutazione che fa la Caritas non può essere una valutazione tecnica e men che meno bancaria. Ed è lì che comincia invece il lavoro delle banche. Allora, non c'è soltanto Intesa San Paolo a erogare il prestito della speranza. C'è un insieme di banche che hanno aderito al protocollo che aveva ricordato prima, ma Intesa San Paolo in questo prestito ha fatto qualcosa di particolare. Cioè ha preso in carico quella fase molto complessa che viene dopo l'affidamento, chiamiamolo puramente fiduciario, e dopo questo giudizio che è soprattutto umano che le Caritas sono in grado di dare, e che è invece un momento critico. Non può esserci in sostanza il passaggio direttamente dalla Caritas a uno sportello bancario, perché sarebbe un passaggio secco, senza nessun accompagnamento, senza nessuna conoscenza tecnica. Allora c'è bisogno di qualcuno che si faccia carico di questo momento così difficile. È un momento non tanto e soltanto di selezione, ma di accompagnamento, un momento in cui le famiglie vengono consigliate su come spendere il denaro, su come non sprecarlo. Infatti, perché un passaggio fondamentale è questo, la causa originale di questo prestito è che i soldi, in media il prestito vale 6.000 euro, non l'abbiamo detto, non vengono erogati tutti in una volta, ma a tranche, e poi viene un po', come dire, controllato come le famiglie spendono questo denaro. Ecco, Intesa San Paolo eroga a tranche. Ecco, qui è bene dire che non tutte le banche non tutte fanno così. Non tutte lo faranno. Intesa San Paolo ha scelto di farlo perché, essendo un processo di accompagnamento, è anche un processo in cui il denaro va rilasciato progressivamente. 1.000 euro ogni 2 mesi per poter amministrare meglio quindi questi soldi. Esattamente, con un consiglio, con una consulenza, diciamo pure continua. Qui c'è un punto delicato, perché se una banca volesse erogare questa consulenza e accompagnamento servendosi delle proprie strutture commerciali e delle proprie filiali ordinarie, non riuscirebbe a farlo. Potrebbe scegliere se fare un prestito disattento, e questo non è nelle intenzioni di nessuno, oppure non fare nessun prestito. Allora, è importantissimo che ci sia qualcuno che accompagna la famiglia, e questo qualcuno deve avere l'esperienza di un bancario ad alto livello, e deve però avere molto tempo da investire in questa attività. E voi avete individuato una figura ben precisa. Che è una figura nuova, anche questa, perché si tratta di pensionati. Sono colleghi andati in quiescenza che hanno costituito una libera associazione in cui la banca ha soltanto un ruolo, diciamo pure, di spettatore, di bandiera, perché si sono rifatti all'esperienza, alla vita in comune fatta all'interno di Intesa San Paolo. L'associazione però si chiama VOBIS, che sta per volontari bancari per l'intervento nel sociale, e tutti insieme sul territorio in 108 sedi in Italia, per quanto riguarda Intesa San Paolo, erogheranno questi servizi di accompagnamento. Dottor Morganti, è che ho poco tempo purtroppo, ma magari ci ritorneremo. Solo rapidamente, le condizioni di questo prestito, quali sono? Perché chiaramente se interessa gente in grave difficoltà, persone che hanno perso il lavoro, come pensate che possano essere nelle condizioni di restituire questo denaro? Dunque, innanzitutto gli pratichiamo un tasso. Conveniente. È un tasso assolutamente al di sotto di quelli di mercato, meglio, che verrebbero praticati sul mercato a soggetti economicamente consistenti e solidi. Quindi parliamo del 4,5% di interesse. Questo è il tetto massimo che è stato fissato dall'ABI, non è una scelta di Intesa San Paolo. Non c'è nessuna garanzia che chiedete? Noi non chiediamo nessuna garanzia perché è la CEI, la Conferenza Episcopale, che ha costituito con una somma depositata in Banca Prossima, vede il ruolo delle due banche, si intreccia come dicevo prima, ha costituito un fondo di garanzia di 30 milioni di euro che serve a garantire parzialmente i prestiti erogati. Devo salutarla, un'ultima informazione di servizio, se ci fossero delle famiglie interessate a questo prestito che ci stanno ascoltando in questo momento, a chi si possono rivolgere nelle prossime ore per poter avere qualche informazione in più? Possono cominciare a parlare con le Caritas sul territorio, anche se il prestito della Speranza inizia ufficialmente nella seconda metà del mese di settembre. Però intanto magari possiamo cominciare certamente a capire se si è nelle condizioni appunto di poterlo ottenere. Dottor Morganti, la ringrazio, le auguro buon lavoro e magari fra qualche mese ci risentiamo per capire com'è andata. Grazie. A presto, amministratore delegato di Banca Prossima del gruppo Banca Intesa San Paolo. Alessandro. Eccoci qua, allora, Salva Danaio, parliamo di multe, oggi un tema bellissimo e tutte le novità del codice della strada in arrivo in autunno. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. L'influenza A raggiungerà il picco tra dicembre e metà gennaio, con un contagio stimato tra 1,5 milioni e 3 milioni di persone, la previsione dell'Istituto Superiore di Sanità. Quanto alle scuole, si pensa a chiusure mirate, quelle con almeno 3 alunni malati. Sull'informazione degli ultimi 2 mesi interviene il presidente della Camera Fini. Fermiamoci, ha detto Fini, perché se si continua con quello che si è visto c'è il rischio di barbarie e killeraggio. Intanto il sindacato dei giornalisti ha convocato una manifestazione per il 19 settembre per difendere la libertà di stampa. Ne parleremo tra pochissimo. A Napoli una ragazzina di 16 anni è stata violentata da un ragazzo di 19 anni e poi è riuscita a fuggire a una violenza di gruppo grazie all'intervento dei carabinieri. 7 degli 8 ragazzi arrestati sono minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Infine per la TV sarà Antonella Clerici, la conduttrice della 60ª edizione del Festival di Sanremo, felice la presentatrice che dice «realizzo il mio sogno». Tutto questo alle 8:34 minuti e dunque lo avete già sentito in rassegna stampa, insomma. Il premier Silvio Berlusconi, dopo Repubblica e il Gruppo Espresso, dopo anche un paio di giornali stranieri, ha citato per danni anche l'Unità, 3 milioni di euro per complessivi. Avete sentito anche il sindacato dei giornalisti, ha convocato per il 19 una manifestazione per la libertà di stampa, ci sono anche 3 giuristi, Franco Cordero, Gustavo Zagrebelsky e Stefano Rodotà, che hanno lanciato un appello per la libertà di stampa, ha rilanciato anche il sito di Repubblica, sono oltre 200.000 firme. Insomma, una cosa è chiara, Silvio Berlusconi sta passando molto alla controffensiva dopo i tanti articoli dell'estate e quello che ci vogliamo chiedere è questo: ma è davvero un paese l'Italia in cui la libertà di stampa è a rischio o è un'esagerazione questo tipo di domanda, questo tipo di posizione? Berlusconi, sapete, è intervenuto anche un paio di giorni fa sulle famose 10 domande, lo vogliamo sentire, 10 domande rilanciate da Repubblica, dicendo che non risponderà perché... Io non rispondo a domande insolenti, offensive e diffamanti. Se queste domande in altro modo me le avesse poste un giornale che non fosse un super partito politico di un editore svizzero con un direttore dichiaratamente evasore fiscale, a un altro giornale, a questi contenuti di domande avrei risposto. Non a quella e del fatto che se fossi malato, perché basterebbe per vedere le cose che ho fatto in questi 15 mesi di attività governativa per dire che non sono malato, sono Superman. E che è Superman? Cioè a me Superman mi fa ridere. Vabbè, la chiosa finale, a me Superman mi fa ridere. L'Unità oggi titola Berlusconi contro l'Unità come i fascisti. Saluto Rinaldo Gianola che è il vice direttore dell'Unità. Rinaldo, buongiorno. Buongiorno a voi. Tu tra l'altro scrivi anche un articolo all'interno dicendo: a noi dell'Unità è toccata una richiesta danni di 3 milioni da parte del Premier perché non ha gradito i nostri articoli. In tempi normali sarebbe una medaglia al valore. Oggi invece è una vera minaccia. Bisogna vedere se ce la caviamo. Perché una minaccia? Perché come i fascisti? Perché secondo te, come immagino, la libertà di stampa in Italia è a rischio? Non è la prima volta che noi dell'Unità abbiamo, diciamo, qualche contenzioso aperto con Berlusconi. È successo già dal 2001 in poi, quando il giornale ritornò in edicola dopo un periodo di difficoltà. E, diciamo che lui non ha mai gradito la nostra posizione, la nostra linea, ed è assolutamente comprensibile. Oggi dico che secondo me l'intervento di Berlusconi è più minaccioso e intimidatorio del passato, perché cade in un momento particolarmente delicato della vita del paese, e in questa vita del paese la crisi dell'editoria, le difficoltà dei giornali, della carta stampata, ma in generale del sistema dei media è evidente a tutti. Una medaglia sarebbe una querela, un'offesa, un'offensiva da parte di Berlusconi nei confronti del nostro giornale. Oggi una richiesta anche civile di danni, diciamo, è un'altra strada, secondo me più minacciosa e più grave. Cioè, la traduco così, visto che la situazione anche di crisi del sistema dei media, una richiesta di soldi potrebbe, come ha scritto anche il direttore Concita De Gregorio, portare in caso di sconfitta a serie difficoltà, addirittura una ipotesi tentativo di chiusura dell'Unità. Ma sai, l'ipotesi di chiusura qui in realtà è la minaccia di Berlusconi. No, naturalmente si tende a intimidire una testata che non piace usando un sistema così, che è assolutamente legittimo da parte sua, per carità. Ecco, ti dico, in altri tempi non ci avrebbe fatto probabilmente nessun tipo di paura. Oggi, sai, vedi un clima che certamente è molto peggiorato rispetto agli ultimi anni, cioè Berlusconi attacca, diciamo, i giornali italiani, diciamo che attacca quelli che non gli piacciono, no? Ma in realtà poi lo attacca un po' tutti, insomma, non è che faccia troppa distinzione, perché ce l'ha con quelli di Repubblica perché l'editore è De Benedetti, diciamo la verità, ce l'ha anche con altri giornali, diciamo, moderati, istituzionali, che non si sarebbero adeguati a, diciamo, una linea di governo così ottimista e favorevole sullo sviluppo di come usciamo dalla crisi economica, no? Già in molte occasioni l'ha fatto presente. È andato a dire agli industriali di non fare pubblicità su quei giornali che predicano in qualche modo il pessimismo o danno notizie negative sull'andamento dell'economia. E se l'è presa con i giornali stranieri, vabbè, ha fatto dei numeri che tutti voi li avete sentiti, insomma, sono davvero imbarazzanti. Sì. In più, negli ultimi giorni se l'è presa pure con i commissari della Commissione europea. E ieri Almunia, che è un commissario importante dell'Unione europea, ha fatto una battuta che purtroppo è una brutta battuta nei nostri confronti. Sì, vabbè, lì c'era a chi devo chiedere il permesso di intervenire. In quello c'era un po' di ironia. Comunque, insomma, un'offensiva molto forte. Eppure io leggo il giornale del quale abbiamo Alessandro Sallusti, condirettore. Buongiorno Alessandro, benvenuto ovviamente. Buongiorno a voi. Ma quando a querelare era Prodi, scrive oggi Vittorio Feltri, che scrive: non è elegante, è vero che il potere politico si accanisca sui detrattori mirando a colpirli nel portafoglio, in genere dà l'impressione di volerli intimidire e zittire, non va bene, ma siamo sicuri che ultimamente la stampa e varie TV si siano attenute alla critica e non abbiano oltrepassato i limiti oltre i quali si scade nella denigrazione, nell'insulto, nella diffamazione? Sallusti, secondo te è quella di Berlusconi un'offensiva legittima perché arriva alla fine di una serie di articoli per i quali non potevano reagire? Sì, guarda, secondo me ci sono tre considerazioni da fare. La prima è che anch'io sono d'accordo che un esponente politico non dovrebbe mai ad agire alle vie legali contro i giornali, se non in casi veramente estremi. La seconda è però che questo fatto, cioè che Berlusconi, come un qualsiasi cittadino, vada da un giudice, da un tribunale e chieda di di difendersi di fronte a degli attacchi significa, è proprio la prova che non siamo di fronte a un regime tantomeno fascista, perché il regime fascista i giornali li chiudevano, non andavano ai tribunali a chiederli di chiudere, per cui Berlusconi si sta comportando come si sta comportando qualsiasi cittadino italiano che si sente denigrato, per cui non c'è alcun pericolo di regime. La seconda è la solita questione della doppia morale, cioè se Berlusconi querela un giornale e chiede dei danni, i giornali si indignano, scioperano, manifestazioni. Volevo ricordare che nell'ultimo anno Antonio Di Pietro a Il Giornale ha inoltrato 9 richieste di risarcimento di danni per un totale di 6.400.000 euro, tutto documentabile ovviamente, e nessuno, tantomeno Il Giornale, ha urlato all'attentato alla libertà di stampa, la Federazione dei giornalisti non ha proclamato manifestazioni e scioperi. Diceva, vabbè, ma Di Pietro non è un premier. Beh, un giornale è stato querelato da Prodi, altri giornali sono stati querelati da D'Alema quando era premier. Insomma, è la solita questione della doppia morale. Su questo però, Sallusti, vorrei farti ascoltare a tutti ovviamente, proprio visto che hai citato D'Alema, quello che D'Alema ha detto ieri. Tutti ricordano la vicenda Forattini-D'Alema, però D'Alema ieri, intervenendo alla festa del PD, ha detto questo. Questi atteggiamenti sono estremamente gravi, tanto più che vengono da chi ha la massima responsabilità di governo e quindi dispone di un enorme potere politico, finanziario, mediatico, e appaiono molto di più che non la reazione di un cittadino, ma la minaccia di un potere nei confronti della libertà dell'informazione. La minaccia di un potere. Poi dal palco D'Alema ha detto: io avevo 3 querele, quando sono diventato premier le ho ritirate, perché secondo me a quel punto il Presidente del Consiglio non doveva più continuare, anche per il tipo di potere, insomma, che rappresenta. Sallusti, che replica si può fare, insomma, a questa posizione? D'Alema dice: una volta che sono arrivato a quel posto, a quel punto ho ritirato, insomma, quello che dovevo fare. Non ricordo la tempistica e me ne scuso con i tuoi ascoltatori. D'Alema chiese 3 miliardi a Forattini, proprio a Repubblica. Sì, certo, e i giornalisti non sopravvivono. E Forattini lasciò Repubblica, non voglio, peraltro. Come dire, fare interpretare la volontà di D'Alema, ma credo che D'Alema quei 3 miliardi ritirò quella querela non perché era diventato premier, ma perché si rese conto di quanto era ridicolo chiedere 3 miliardi di danni a un vignettista. Ma volevo aggiungere la terza osservazione, che si sta parlando del fatto senza parlare del contenuto, ovviamente. Qui sembra che Berlusconi abbia querelato Repubblica e l'Unità per delle questioni politiche. Ha querelato l'Unità perché l'Unità ha scritto degli articoli in cui si insinuano, si scrive e si insinua alcuni, come dire, comportamenti privati, sessuali, impotente, non potente, gli tira, non gli tira, usando anche delle parole che forse in una radio come Radio 24 al mattino alle 8 è meglio non usare. Ma perché? Allora parliamo anche del contenuto, perché qui sembra che il premier abbia querelato perché l'Unità ha detto che è un cattivo che premier. Che peraltro non ha querelato, no, Gianola, non è sì, una querela, ma una citazione. Ha chiesto dei danni. Io vorrei vedere se domani noi pubblichiamo dei dettagli della vita sessuale del direttore dell'Unità, se il direttore dell'Unità non mi chiede un risarcimento danni. Allora, Gianola, una replica veloce su questo, che ma poi diventa un... Guarda, sì. Forse inviterò il collega Sallusti a leggere più attentamente gli articoli che sono sotto oggetto di accusa da parte del Premier. Le valutazioni di Berlusconi sono relative a un ampio spettro di argomenti, tra cui ad esempio la battaglia Murdoch-Berlusconi nelle televisioni, nella pubblicità e nelle lotte di potere, sono sull'assetto del governo, sono sui suoi comportamenti privati, ma in quanto Presidente del Consiglio, e le battute che si riferiscono, diciamo, alle prestazioni sessuali di Berlusconi sono relative a uno spettacolo citate da Liliana Littizzetto, sì, che viene addirittura citata in questa causa, quindi non c'è niente di così drammatico. A questo punto non so se la Littizzetto verrà citata anche lei a questo punto. Il problema è vero, al di là di questo, delle cause che Berlusconi ci fa o non ci fa, E se oggi esiste davvero un problema informazione e libertà di informazione nel mondo, nel nostro paese. Da questo voglio ripartire subito dopo il traffico. Tra l'altro salutando anche il senatore Pancio Pardi, buongiorno. Buongiorno. Senatore dell'Italia dei Valori, le chiedo ancora un attimo di pazienza, ci sono le informazioni sul traffico e poi parliamo anche della manifestazione del 19, perché alcuni hanno pensato, anche con poi 200.000 firme appoggiate da Repubblica, cioè un movimento di italiani, intendo questo, che bisogna scendere in piazza per difendere la libertà di stampa, che secondo loro è in pericolo in questo paese. Il senatore Pancio Pardi è uno di quelli che tra l'altro animò la stagione dei girotondini. Lei, senatore, sarà il 19 in piazza per difendere la libertà di stampa? Per forza. Perché secondo lei c'è bisogno di una manifestazione? Non c'è questa doppia morale, come dice Sallusti, una volta che querelano da sinistra va bene, una volta che si querela da destra no? No. Non c'è è un caso completamente diverso. Sallusti si dimentica che il padrone reale del suo giornale, il giornale appartiene al fratello, ma in realtà tutti sanno che lì comanda lui, tant'è vero che riceve lui il direttore di giornale. E dimentica che Berlusconi è il presidente del Consiglio, non è un cittadino qualsiasi. Il problema dell'informazione in Italia c'è esattamente dal primo giorno in cui Berlusconi è entrato in politica. E noi l'abbiamo sempre detto, la nostra prima manifestazione c'aveva un cartellone che diceva giustizia e informazione imbavagliata e democrazia in pericolo, questo nel 2002, ma già dal 1994 la democrazia internazionale era in allerta, per un motivo molto semplice, che in una democrazia normale il possessore di mezzi di comunicazione non può diventare il vertice del potere politico. Quindi al di là di tutti gli altri aspetti grotteschi, il giro di donne a pagamento dimostratissimo nelle casse del Presidente del Consiglio e tutto il resto, resta il fatto sostanziale che noi abbiamo un caso unico al mondo dove il possessore di mezzi di comunicazione privati controlla i mezzi di comunicazione pubblici, possiede la più grande casa editrice, possiede un giro d'affari di dimensioni impressionanti, è il personaggio più ricco del paese, può influenzare tutti i mezzi di informazione, anche gli altri, perché li può intimidire, ed è il vertice del potere politico. Insomma, è il conflitto di interessi, lei sta girando su questa parola che non ha ancora detto, ma è questo il punto che secondo lei... Diciamo, il conflitto di interessi è l'incompatibilità sostanziale con l'esercizio dell'attività politica. Cioè, ma guardi, però il problema in Italia forse è che non esiste, come ci sono invece in altri paesi, gli editori puri, ma da tutte le parti, voglio dire, un altro discorso. Ogni editore non fa solo l'editore, ma persegue anche degli altri interessi, con aziende, con gruppi industriali. Un industriale editore, una cosa è essere presidente del consiglio e editore, cioè lui ha in mano una clava mediatica che gli permette anche di fare a meno dell'olio di ricino. Addirittura la clava mediatica è anche il giornale, visto che così Sallusti le può rispondere, secondo lei? La clava mediatica è essenzialmente la televisione, diciamo, gli altri sono mezzi di accompagnamento. Se lei pensa... Sallusti, guarda, Sallusti, su questo, siete un mezzo di accompagnamento. Le cose non stanno così, perché dice Berlusconi non è un cittadino normale, neanche il suo amico Di Pietro è un cittadino normale, leader di un partito, e a me personalmente ha chiesto 6 milioni Pardi, non è il presidente del consiglio con quello che non incarna, cioè l'uomo che impersona insomma il potere del governo nel momento in cui lo è. Sì, ma ripeto, anche Prodi, presidente del consiglio, ci querelò e nessuno lo ha la libertà di stampa, La seconda cosa è che non è vero che Berlusconi, che la stampa italiana è in mano a Berlusconi, la stampa italiana è in mano a gruppi finanziari riconducibili alla politica, Corriere della Sera, Messaggero, La Stampa, Repubblica, dei poteri finanziari che controllano, quelli sì, i gangli vitali del paese. Berlusconi sulla stampa controlla indirettamente attraverso la famiglia, è proprietario esclusivamente del giornale che rappresenta una piccolissima percentuale della stampa italiana. La terza cosa è che l'attacco a Berlusconi non arriva da un giornale indipendente, ma arriva da un giornale che ha un editore chiaro, che è il capo dell'opposizione, perché l'Unità è il giornale del capo dell'opposizione. È un giornale politico, non è che ha un editore puro, l'Unità sta legittimamente facendo una battaglia politica e ha un editore politico. Dire che Berlusconi ha indicato in Repubblica un giornale super politico più che nell'Unità. Gianola, su questo. Ma io vorrei aggiungere una cosa, che diciamo in una giornata abbastanza nera per noi, no? Perché non è piacevole ricevere così queste accuse, poi insomma, no? Ho letto che persino Feltri ha fatto delle osservazioni a nostra difesa, e veramente dopo la campagna recente che ha condotto sul caso Boffo a venire, veramente sulla quale ci arriviamo tra un attimo, togliersi il cappello davanti a Feltri, perché è veramente un maestro di giornalismo e può scrivere qualsiasi cosa. No, vorrei dirti che secondo me anche questa iniziativa di Berlusconi tuttavia prepara il terreno per l'autunno e per l'inverno. È evidente che lui ha voluto spostare nel campo avverso una battaglia, una guerra che sente pericolosa per se stesso, per il mantenimento del governo, per l'esistenza della sua maggioranza e per la sua stessa figura politica. Io mi fido abbastanza del giudizio delle donne, penso che abbiano spesso ragione. Se Veronica Lario definisce in tempi non sospetti suo marito una persona malata, io penso che ci sia del vero. C'è della patologia nell'azione politica di Berlusconi in questi ultimi mesi, c'è qualcosa che non torna nel suo comportamento, nella sua lineare sviluppo dell'azione del governo. Ha litigato con i suoi più strettissimi collaboratori sulla vicenda delle escort, della Patrizia, il caso di Bari, si è sentito anche un po' abbandonato probabilmente dai suoi stessi più stretti collaboratori come Gianni Letta, che deve mettere in questi giorni a posto le relazioni col Vaticano. Ci sono delle questioni politiche, non personali, politiche, che stanno diventando enormi. Un esempio è la relazione di questa maggioranza con il mondo vaticano. Vabbè, su questo voglio dire quello che un altro è la relazione con il mondo industriale, che da cui nascono e si evidenziano crescenti distacchi. In più c'è la figura di Berlusconi e la sua azione personale di governo. Penso che ci sia qualcosa che non va. Allora, vorrei andare per un attimo al senatore Pardi, se vuole replicare a Sallusti, che poi devo incalzare su un paio di cose, la questione Avvenire, giornale ovviamente. Qui, la questione, il dibattito si è spostato insensibilmente sulla questione della stampa, cartacea, ma il problema del comando politico reale nella società è la televisione. Tutti sappiamo che dal 30 al 50%, c'è chi addirittura dice l'80% dei cittadini arriva al voto informato solo dalla televisione, ma fosse pure il 30, ma fosse pure il 10%, siccome si vince o si perde per percentuali minori, il problema è la televisione. Ora noi abbiamo il vertice del potere politico che è proprietario diretto di metà del sistema televisivo che è suo e controlla l'altra metà. Si può dimostrare, certo. Che controlli quando l'altra metà, purtroppo c'è sempre stato. Quando Berlusconi ha incontrato i giornalisti Rai, ha avuto la faccia tosta di dire loro: siete contenti dei direttori che vi ho nominato? Gli ingenui potevano pensare che i direttori della Rai, dei TG, fossero nominati dal consiglio d'amministrazione. Lui ha detto che li ha nominati lui, e infatti è vero, è sempre stato così. Che è lo specialista nel nascondere le notizie che riguardano il giro di donne a pagamento. È sempre stato così, Pardi, che la politica nomini chi ha il governo e chi ha il potere nomini alla Rai. Se Andreotti avesse nominato lui ai suoi tempi i direttori dei TG, restava sempre il fatto che Andreotti non era il proprietario di tre reti televisive. Questo non è vero. Abbiamo una concentrazione, il fattore B come Bocassa, cioè lui ha le sue televisioni personali, ne fa quello che vuole e poi dal potere politico comanda tutte le altre. Berlusconi Bocassa non l'avevo ancora sentito, era un dittatore africano Bocassa, anche che si lasciava a comportamenti davvero che non voglio neanche ricordare. Bip come Bocassa, accidenti, questa è nuova, Pardi, me la segno. Sallusti, io devo concludere, ma c'è la vicenda insomma Boffo, non la possiamo che la chiudere in un minuto, ma l'aspetto che è oggi sui giornali, il Vaticano, padre Lombardi, il portavoce, ha fatto un gesto che di solito non si fa, insomma inedito, ha fatto una conferenza stampa, ha detto: Feltri crea caos, non nessuna velina da parte del Vaticano, insomma lo scontro è molto duro. Perché perseguite su questa linea di scontro frontale? Ma noi non abbiamo una linea di scontro frontale, a differenza di quello che è successo nella campagna mediatica contro Berlusconi e le vallette, diciamo così, con un inciso che l'unica inchiesta giudiziaria aperta sulle vallette pugliesi riguarda esponenti della sinistra che scambiavano favori in cambio di attenzioni sessuali. Non mi risulta che Berlusconi sia sotto inchiesta per le vallette. Noi abbiamo pubblicato un atto giudiziario. Si continua a parlare di questa velina. Beh, c'è anche però la velina non è altro che un'informativa che Dago Spia e un altro quotidiano come il Riformista hanno attribuito a fonti vaticane, non certo noi, perché questa è la verità dei fatti. Ma anche ancora una volta si continua a non parlare della sostanza. Noi non abbiamo pubblicato gossip o illazioni, però in 10 secondi, Sallusti, avete pubblicato anche quell'atto che non era, come ha detto il procuratore, negli atti del processo. Ma nessuno perché? L'ha mai scritto che era negli atti, è una spiegazione di quello che è successo, che questo sì, posso confermarlo, circolava, una spiegazione scritta di quello che è successo, che questo sì, circolava in ambienti non solo vaticani, ma circolava addirittura, è stata indirizzata a tutti i vescovi che se la sono ben tenuta stretta. Questo sì. Sì, poi come ha detto Nessuno di noi ha mai detto che era un atto giudiziario, che era un atto ufficiale del Vaticano. Sembrava un po' il primo giorno, però poi è stato tutto chiarito. Poi tra l'altro Feltri giustamente ha detto la fonte non la diremo mai, insomma è sacra per il giornalismo, non vi diremo mai come lo abbiamo ottenuto. Vi devo salutare e ringraziare Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità, Alessandro Sallusti, condirettore del giornale, il senatore Francesco Pardi dell'Italia dei Valori. La linea al nostro direttore Gianfranco Fabi per 9 in punto. Noi ci troviamo domattina.